Palla Spicchi con Carlo Genta. Abbiamo giocato con la convinzione di vincere perché abbiamo... Io prima della partita ho detto ai miei giocatori: vince chi soffre di più, vince chi è più duro. È difficile intuire la classifica adesso, è difficile intuire come i roster arriveranno, la salute sarà molto importante perché saranno playoff lunghi. Anche nel momento peggiore, sotto di 6, time out, ho visto le facce dei miei giocatori che ci credevano ancora. Negli altri incontri con loro avevamo gli occhi bassi. A volte avere coraggio paga. Dopo 5 scudetti di fila, per le Coppe d'Italia, non è scontato. Noi vogliamo essere lì a rigiocarsela di nuovo, e se teniamo questo spirito saremo di nuovo a giocarcela, che è quello che conta. Botte e risposta tra Pianigiani e Trinchieri per la partitissima di ieri sera, che in 6.000 hanno visto Adesio, che Luca Chiabotti, che è qui con me, che ringrazio, ha visto Adesio e ne ha scritto sulla Gazzetta dello Sport. Ciao Luca. Ciao a tutti. Che io ho visto a tarda notte, che molti non hanno visto, che qualcuno avrà visto su streaming, e che non so se Coach Dan Peterson dove l'abbia vista. Ciao Coach. Ma ciao ragazzi, l'ho seguito per... il computer, tanto per dire. L'hai sentita per radio, eh? Sì, ma guarda, probabilmente io ho detto anche a qualcuno che questa è forse la più grande, più bella, più importante partita giocata in Italia dal 98, quando la Fortitudo e Virtus hanno fatto la quinta, tiro di Dylan Ilic, 3 punti, falla di Wilkins, tiro libero supplementare, vinta la Virtus, perché cosa vogliamo di più? Sì. Punteggio alto, 2 grandi squadre, 2 grandi allenatori, punto a punto, supplementare, Basile, cioè, voglio dire, è un po' di tutto, cioè, è stata una partita, uno spot per basket superiore a questo, nessuno riesce a creare, cioè, è stato fantastico. Sì, spot per il basket che, come detto, è andato in onda su streaming, Rai, non in diretta come era previsto, è andato in onda come ai vecchi tempi, no, di notte. Esatto. Ti ricordi degli anni 80, no? Luca, le partite del coach in Coppa dei Campioni? Erano anche bei tempi però, perché sì, almeno si vedevano. Ma cosa ne pensi di questa storia? Della televisione, sì. Ma sai, qui bisogna fare un discorso un po' spiacevole, perché va a finire una guerra fra poveracci, che saremo noi, l'hockey su ghiaccio, che aveva una gara decisiva ed è il motivo per cui non si è vista la pallacanestro e la pallavolo. Quindi sgombriamo questa guerra che dovevamo, sì, esserci noi al posto dell'hockey, noi invece ci doveva essere quell'altro, che è abbastanza spiacevole. Certo è che il servizio della Rai è questo, hanno fatto delle tentativi quest'anno di essere più bravi che in passato, ce la stanno mettendo, ma sul profilo della disponibilità, adesso andiamo verso i playoff e vediamo cosa succederà. Vediamo cosa succederà, perché è sempre la solita vecchia storia. E devo dire peraltro che se gli sport poverini come i nostri si guardassero un po' negli occhi e non facessero giocare delle partite tutte alla stessa ora, dello stesso giorno, con lo stesso accordo, con la stessa rete, forse qualcosa sarebbe più facile, no? Si vedrebbero tutti, lì in fondo bastava saperlo. È chiaro che su un playoff di hockey non puoi sapere quante gare, certo, ci saranno, certo. Ma si poteva saperlo prima, ci si arrangiava, e soprattutto non c'era la rabbia di chi ha letto i giornali la mattina, ha acceso la televisione e non ha visto niente, e soprattutto ha perso, come diceva Coach Peterson, una delle partite più belle. Ma sì, guarda, Luca, posso dire una cosa? Come no? Luca ha piena ragione, perché guarda caso, tutti noi sappiamo, ti ricordi qui fino a, non so, 15 anni fa, il calcio, il calcio sacrosanto, la contemporaneità, si gioca all'ora delle 15, non si tocca, adesso si gioca giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì, si giocano alle 18, alle 21, alle 15, cioè giocano tutte le ore e hanno spalmato il calcio, dove tu non puoi scappare dal calcio. E basket deve fare altrettanto. Questa settimana in cui si è partiti diversi giorni, non so cosa ne pensi Luca, perché per me è una manna per il basket italiano, altrimenti si scrive solamente lunedì di basket italiano e 7 giorni su 7 sull'NBA, che intelligentemente gioca 7 giorni su 7. Certo. Senti Coach, volevo chiederti un'altra cosa invece. Io non sono d'accordo con un'affermazione che abbiamo sentito ieri da Trinchieri dopo questo 95-94, dopo i tempi supplementari, partita epocale, Ebbene, anche Luca Chiabotti ha riportato questa dichiarazione sulla Gazzetta. Trinchieri l'ha detto, l'abbiamo sentito: sono due punti bonus in classifica che ci danno un grande entusiasmo. Non devono essere, per una Cantù che è diventata una grande squadra, due punti bonus, secondo me. Well, capisco l'allenatore, hai capito? Cioè, lui vuole tenere i piedi per terra, gettare acqua sul fuoco, avere la gente sempre, perché lui deve giocare dopodomani qui a Milano, cioè proprio sa che c'è un derby, cioè, deve proprio dimenticare, mettere in archivio, non dimenticare, mettere in archivio questa partita e ricaricare le pile per questa qui. Hanno speso un patrimonio di energie ieri sera, senza dubbio, quindi capisco questo, e lui vuole volare in basso, se vogliamo dire così, avere la gente strisciare per terra e veramente gente affamata, sì. Capisco la motivazione, poi magari non siamo d'accordo per la sostanza, però capiamo il perché. Sì, però ha volato basso fino adesso, prima parlava, diceva insomma, forse è il momento di cominciare, no, a volare un po' più in alto. Trinchieri è scaltro, furbo, lui vuole, bravo, lo sto dicendo in maniera positiva, lui vuole, mettiamo il riflettore su Milano, mettiamo il riflettore su Siena, sì. Noi siamo nell'ombra qui, e lui sta bene così, però quando batti Siena non è più facile. Anche perché per un effetto ottico strano, adesso Cantù è pari a Siena in testa alla classifica, Siena ha due partite in meno, però ce la teniamo, ce la teniamo e sogniamo grandi playoff. No, ma allora guarda Cantù, anche tutto quello che hanno fatto quest'anno qui merita solamente l'applauso. Poi la mossa più azzeccata di tutti i tempi, Gianluca Fasile, classe 75. Guarda, che c'era stato anche qualche dubbio, c'era stato anche qualche dubbio a inizio stagione, ma come sta? Lo teniamo, non lo teniamo? Luca, se tu non fai una pagina su di lui domani, mia in cavolo, ok? Quindi, oggi c'è Del Piero, prima pagina della Gazzetta. La vera notizia, secondo me, è che la Gazzetta ieri ha fatto una pagina con Gianluca in pre-partita e lui ha giocato bene, non succede mai. Noi siamo come noi portiamo in questo, come Sport Illustrated e altri giornali, quando noi ci puntiamo su di lui, è stato ancora più forte di questo, e secondo me la prestazione è per questo che è straordinario. Ha saltato il gatto nero. Luca, ti confido una cosa, cioè, il titolo dell'articolo sulla Gazzetta, cioè, fa gli altri puntare gli occhi su di te. Prima di te, quando c'era Enrico Campana mi chiamava per la Gazzetta, no? E dice: Dan, voglio fare un servizio su Milano. Enrico, fammi un piacere, parliamo di Livorno. Suggeriva sempre un'altra squadra, non volevo mai andare lì perché l'altra squadra dice: ah, Milano ha avuto il servizio sulla Gazzetta, allora puntiamo. E adesso gli facciamo un mazzo così. Senti, coach, prima di salutarti, non può mancare il tuo tweet di oggi, perché tu stai divagando, ma noi ti peschiamo tutte le settimane. Oddio. Tweet del coach. Vorrei proprio sapere cosa sta facendo Mario Balotelli in questo momento. E chissà cosa farà domani. E dopodomani. Dai la colpa a Franco Piantanida, coach, li pesca tutti lui. Senti, sì. Ma tu hai mai allenato un giocatore pazzo alla Balotelli? No. O meglio, il più pazzo che hai allenato? Neanche minimamente ipotizzabile, ok? Magari devo pensarci un attimo, ma non ma non credo. Quindi per questo l'ho fatto il tweet, per una battuta più che altro, che faccia quello che vuole lui. Ah, sicuro, con un po' di invidia anche da parte nostra, di tutti quanti. Grazie, coach, ciao, ci sentiamo venerdì. Ciao, Carlo, salve, ciao, ragazzi. Ciao. Palla spicchi. E noi torniamo sempre in compagnia di Luca Chiabotti, inviato dalla Gazzetta dello Sport. Ringrazio ancora Franco Piantanida, che è in redazione, che mi ha portato una serie di messaggi comparsi sulla nostra pagina Facebook su questa storia della Rai. Vado a caso, non ne ho ancora letti, quindi vado in diretta anche con i messaggi. Fosse stata la solita partita di Serie C2 di calcio, sarebbe stata un'altra faccenda, ma una gara 4 di finale, seppure di hockey, può venire prima di una partita di stagione regolare, sia pur di basket. Detto ciò, mi girano pur sempre le scatoline per non aver visto Cantù Siena, scrive Marco Morandi. E poi Luca Scarrieri, poi ci lamentiamo se le società non riescono a finire le stagioni o se gli italiani non emergono continuando così, come pretendiamo che arrivino investitori o pubblicità se non viene data più visibilità a questo sport, eccetera eccetera eccetera, ce ne sono molti. E c'è anche una battuta di di coach Trinchieri su questa faccenda, sul fatto che non sia andata in diretta TV la partita di ieri sera. Beep, beep, beep, beep, beep, ok? È una roba veramente... Beh, non mi fate incasinare, già mi incasino da solo. Mica male, Luca? Beh... No, è uno che ci sa fare anche con, sì, anche con le parole. Certo, è molto, sì, bravo. Ascoltami, ma non sei d'accordo con me sul fatto che comunque Siena, cioè Cantù, abbia avuto troppo timore reverenziale fin qui nei confronti di Siena? Mi riferisco anche alla finale di Coppa Italia, ne abbiamo parlato con Bruno Arrigoni quando è stato nostro ospite. Ha sempre avuto questo... Guarda, l'ha detto Trinca, coach Trinchieri, prima nelle cose che ha detto. Le altre volte, quando... Siena andava avanti di 6 punti nel momento decisivo, soprattutto con un'onnipotenza di giocatori come potevano essere Lavrinovic ieri o Andersen altre volte, in cui tu li guardi e dici: ma io cosa ci posso fare contro questi qui? Occhi bassi. Stavolta anche un po' colpa sua, però. Sì. Oh no. Sì. Occhi bassi, invece stavolta occhi alti. E io credo che, al di là di tutto, Cantù sia stata la più degna antagonista, tant'è vero che la cosa curiosa è che, arrivando ieri con uno 0-3 in stagione e con un, adesso mi sembra, 1-10 negli ultimi 2 anni, è nata questa rivalità fortissima fra le due squadre. C'è questo sentimento proprio di rivalità, di derby, dove a fronte di risultati numerici come questi non ci dovrebbe essere, perché Cantù è sempre stato un antagonista. Per 2 volte ha avuto la palla, l'ultima palla e l'ha sbagliata, ieri è andata a supplementare, una l'ha battuto, per cui è sempre stato un antagonista che però in certi momenti spesso non è riuscito a fare il salto di qualità. Stavolta l'ha fatto, è una partita strana, mancavano 2 giocatori fondamentali a Cantù. Come no, Shermadini e Mizzo. Mancava uno almeno tra Kenneth e Thornton, quindi importante, a parte Michelori, che ieri magari avrebbe fatto comodo, perché ieri Brunner ha fatto lines, cioè, quindi vuol dire che Siena è battibile con certi sistemi, soprattutto va attaccata. Se Siena si guarda, si perde tutta la vita; se si attacca, si ha una chance. Cantù l'ha fatto fino all'ultimo minuto per la prima volta, e sono d'accordo con te, poteva farlo altre volte. Avevamo tutti la delusione di questa finale di Coppa Italia, perché non aveva, era stata proprio brutta, era stato un ritorno al passato. Questa partita dice che i playoff, a parte che Siena può aggiungere ancora un giocatore, questa partita verso i playoff dà al campionato italiano un altro colorito. Certo, 800 24 00 24, se volete parlarne con noi. Sarà la finale scudetto? Cioè, io credo che, insomma, guardando la classifica, domenica tra l'altro c'è Milano-Cantù, domenica sera, che vedremo in televisione alle 8:30 regolare, almeno a quanto pare. Però credo che 4 punti di distanza, cioè più 25 dell'andata per Cantù in quella partita. Io penso che Montepaschi e Bennett saranno prima e seconda. La Bennett ha fatto questa prodezza senza i 2 giocatori fondamentali, perché diciamoci la verità, Mizzo e Shermadini sono un po' il gioco di Cantù. Quindi non so se resisterà nel prossimo mese, tra quei playoff, senza 2 giocatori di questo livello. Detto questo, dipende da che parte Milano finirà nel tabellone. Anch'io sono abbastanza convinto che per cosa ha buttato via Milano, anche se in questo momento forse è la squadra che sta meglio delle tre, non ce la farà ad arrivare primo o secondo. Però bisogna anche vedere da che parte capita, perché se capita dalla parte del tabellone di Cantù è una cosa, se passa dalla parte di Siena dall'altra, poi se passano tutte e tre dalla stessa parte, poi dopo ci divertiamo per davvero, perché anche i quarti diventerebbero una roba. Però credo che questo sia la discriminante. Da che parte va a finire Milano? Chi è che la deve affrontare per primo? Intanto Milano ha aggiunto un giocatore, più un futuro giocatore, che è Fernandez, che passa portato, verrà forse per l'anno prossimo. Ha preso invece, già per questa stagione, un americano che in pochi conosciamo, me compreso, Simmons. Non so che tipo di giocatore sia e cosa possa dare alla Milano di Scariolo. Ma io credo che lui possa dare sempre parametrato sulle parole di Scariolo e su quello che uno può fare in Repubblica Ceca o in Eurocup rispetto a partite come quelle di ieri sera, che sono partite di Eurolega e di primo livello. Certo. Dà quella solidità in un ruolo, un uomo in più, solidità in un ruolo dove francamente Alessandro Gentile sta facendo un po' di fatica, e quindi un uomo in più che ha la possibilità di mettere qualche tiro, di difendere e di andare via anche in uno contro uno, che è la cosa forse in questo momento che con Erston ancora un po' di cristallo la squadra ha bisogno. Dopodiché chiaramente di carne ce n'è bisogno in questi playoff, sicuramente. Ascolta, io ho tanti messaggi sul voto di ieri sera della Gazzetta, non hai fatto tu le pagelle, ma Massimo Oriani, sul 6 agli Unen che viene considerato troppo poco dai nostri ascoltatori, ad esempio, troppo poco per uno che ha chiuso con 26 di valutazione con una gamba quasi fuori uso, scrive uno dei tanti ascoltatori su questo tema. Allora, sulla gamba quasi fuori uso è una cosa che si è scoperta dopo, quindi non si poteva svegliamo l'arcano, siamo arrivati tardi su questa cosa. Gli Unen però io capisco e condivido il voto di Massimo, perché gli Unen è un giocatore strepitoso che in certe situazioni ormai è statistico, non guarda neanche il canestro. Allora, le sue finte per far saltare l'avversario e poi dar via la palla, i suoi tagli senza guardare il canestro sono una boccata d'ossigeno per gli avversari. Allora, gli Unen è un giocatore, ha giocato benissimo, ha fatto un primo tempo strepitoso, è stato uno dei protagonisti della vittoria, però sparisce sempre nei momenti decisivi. Se lui avesse questa mentalità probabilmente giocherebbe, non lo so, nel Panathinaikos o chissà dove, o nel Barcellona, però non è difficile, ha i mezzi per farlo, e capisco il 6 e mezzo perché troppe volte ieri ha ricevuto la palla in momenti in cui la squadra era un po' in difficoltà e si è girato dall'altra parte e l'ha data via. Lui è un giocatore americano che deve guardare il canestro e... come faceva un paio di stagioni fa. Esatto. No, quando si diceva gli Unen comunque pronto per una grande squadra dell'Eurolega, poi ha avuto un po' di quello flessione. Perché lui è un giocatore molto altruista. Certe volte fa delle partite da 4 tiri, che è una follia se uno ci pensa per un giocatore di questo tipo. E ieri stava dominando la gara, a un certo punto Lione stava dominando la partita e chissà perché poi a un certo punto non l'ha dominata più. Chiaro che dobbiamo metterci la cosa della caviglia, tra l'altro Trinchieri l'ha detto, lui ha voluto, è stato lui che ha voluto restare in campo, quindi tanto di cappello. Ovviamente riguardo alle Gazzetta non lo sapevamo, l'abbiamo saputo a tarda notte. 800 24 00 24, figuriamoci. Primo è Enzo dalla provincia di Monza, Brianza. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. D'Adesio, mi sono collegato in ritardo, non vorrei magari dire una cosa che è stata già detta. Io ieri sera ero uno dei 6.000 fortunati che ha assistito alla partita, veramente molto bella, emozionante. E secondo me è stata una partita piena di paradossi. Perché? Perché Cantù senza Cermadini, senza Mikov e per un supplementare e mezzo quarto dell'ultimo quarto senza Brunner, si può dire che ha dominato a rimbalzo, e questo è veramente è un paradosso. Ma il paradosso ancora che più mi ha stupito è il fatto che Siena a metà del terzo quarto, se non sbaglio, era ancora col 75% da 3 punti e nonostante tutto Cantù è riuscita a rimanere aggrappata. Non so come, spiegatemelo voi, perché è una squadra che veramente continua a stupire. Ha delle risorse pazzesche, lui. Sì. Ma secondo me ha spiegato tutto lui, nel senso che il nostro ascoltatore ha centrato i due aspetti tecnici fondamentali della partita. Se Siena, che ieri ha avuto il 77% dal campo nel terzo quarto, è arrivata a 9 su 12, normalmente con queste percentuali di tiro Siena sarebbe stata avanti di 30. Certo. Il problema di Siena è in difesa, molto grave in questo momento. Il problema di Siena è a rimbalzo, come è stata dominata dall'Olympiacos, ma là si diceva sono tutti atletici, grosso. È stata dominata anche questa volta. Quindi secondo me la realtà è da ribaltare, cioè Siena, nonostante il fatto di avere avuto questi problemi, con una grande serata di tiro è stata impartita. Quindi forse, se andiamo ad analizzare le cifre, è stata più Siena che è stata impartita, certo, rispetto a Cantù che è stata aggrappata a Siena, certo, anche se a metà dell'ultimo quarto Siena sembrava avesse vinto. Certo. Palla spicchi. Torniamo con Palla Spicchi, sempre in compagnia di Luca Chiabotti. Tra poco vi faccio sentire anche suggerimenti culinari per presentare una delle partite di questo weekend, ma prima, per restare ancora un attimo sulla partitissima di ieri sera su Cantù Siena, volevo chiedere a Luca un parere su un giocatore su cui ci troviamo abbastanza d'accordo, a microfoni spenti, rendiamolo pubblico, che è Doron Perkins, che è un giocatore che apparentemente con il sistema Cantù non c'entra nulla, e io dico proprio per questo è fondamentale, perché è un giocatore di grande energia fisica, di grande imprevedibilità, capace di rompere in qualche modo gli schemi e anche la perfezione di Cantù. Ieri sonnecchia per 30 minuti e poi alla fine vince la partita insieme al Baso. Ma è esattamente il motivo per cui l'hanno preso, nel senso che loro avevano sicuramente bisogno di un giocatore un po' diverso e soprattutto di una taglia fisica da Eurolega in quel ruolo, tant'è vero che ha finito con 11 rimbalzi di cui 8 li ha presi negli ultimi 15 minuti, supplementare compreso, quindi sì, proprio li ha stesi tutti a livello atletico. E poi, come dici tu, cioè ci sono dei momenti in cui una squadra col suo gioco, con la sua perfezione, non riesce a cavare un ragno dal muro, e arriva lui, e ieri è arrivato pesantissimamente dopo una partita francamente disastrosa per 30 minuti, perché sì, sembrava che non capisse che tipo di pallacanestro si stesse giocando in quel momento lì, probabilmente non l'aveva capito, poi dopo in realtà è stato l'uomo decisivo. E questo mi rende ancora più curioso di vedere un'eventuale, ma credo certa, serie di playoff tra Montepaschi e Cantù. Paradossalmente dico che l'unica chance per Cantù sarebbe incontrare la Montepaschi non in finale, quindi in una serie al meglio delle 5 partite, come dovrebbe essere la norma delle cose, perché sulla serie al meglio delle 7, cosa che non sopporto più, non credo che ci siano ancora chance per nessuno. L'idea è questa, sono d'accordo, solo Siena, se non dovesse recuperare determinati giocatori, potrebbe complicarsi su una serie a 7 col fattore campo che ormai ha conquistato, perché come dicevamo prima, il primato in classifica, coi punti non bisogna più guardarlo perché ha giocato 2 partite in meno Siena. Senti, ma prima facevamo sempre i microfoni spenti, rendiamo pubblica anche questa una considerazione. Dopo aver visto Sato in Eurolega, dopo aver visto questa stagione difficile di Airstone, dopo averne viste tante, ti dicevo che la Montepaschi Siena mi sembra un po' la Juventus dei vecchi tempi, dei tempi di Boniperti. Quando andavano via da lì, una ragione c'era sempre. Sì, ma è anche una ragione di, prima di tutto, quello che viene richiesto ai giocatori che giocano a sì, Siena, cioè una dedizione totale, assoluta. È un po', no, quando uno prepara la maturità, poi dopo si trova a doversi gestire all'università e champagne per un po' di tempo, perché non capisce che quello che aveva fatto prima deve ricominciare a farlo subito in un nuovo ambiente, e quindi sì, è sempre un problema. Sono pochissimi giocatori, anzi forse io non me ne ricordo qualcuno, no, che è andato via da Siena e ha spaccato. Diciamo che Airstone è un giocatore che l'ha fatto, però sì, mostrando dei problemi fisici che erano già presenti l'anno scorso, e quindi con questo punto interrogativo. Certo. Allora, Adriano da Cagliari, e poi sentiamo in quale cucina ci porta Gianmaria Vacirca. Adriano. Sì, buonasera. Buonasera. Una cortesia, io prego, vi sto ascoltando, vi ascolto sempre. Bravo. Quello che volevo chiedere, ho sentito per quanto riguarda Milano che dovrebbe giocare Simons. Non... Nella Gazzetta dice che è stato acquistato Fernandez, che molto probabilmente potrebbe passare perché passa a portata italiana, ma per Simons dice che non è possibile per problemi di visto. No, non è che non è possibile, i tesseramenti per giocare nella partita con Cantù scadevano oggi a mezzogiorno, e quindi non sono riusciti ad ottenere il visto di Simons in tempo, che verrà tesserato la settimana prossima, quindi salterà solo la partita con Cantù. No, arriva, è già arrivato, è solo una questione burocratica per questa partita. Allora, adesso sentiamo Basket Chef, sentiamo che cosa ci dice Gianmaria Vacirca su una delle partite in programma domenica. Basket Chef. Abbiamo incontrato Claudio Coldebella a Sassari, alla vigilia della partita ben giocata ma persa, ma con qualche persa di troppo, come ha detto coach Giorgio Vicedafine, dalla Benetton contro la Dinamo dei Miracoli. Claudio ci ha raccontato di questa grande sfida chiamata Treviso Io Ci Sono, dedicata a costruire un futuro alla pallacanestro nella Marca, dopo l'uscita di scena della famiglia Benetton, una delle più longeve e generose che il basket abbia conosciuto nella sua lunga storia. Claudio era stanco ma soddisfatto. L'idea del consorzio mutuato della pallacanestro varese sta prendendo corpo e un big come Riccardo Pittis ci ha messo faccia, oltre che tempo ed energia, tolta una delle sue attività, quella di ristoratore di successo attivo in città da quasi 20 anni. Treviso riceve Bologna, un tempo era una sfida siderale, si parlava di scudetti, oggi i tempi sono cambiati. Claudio Sabatini si accontenta dei playoff, la Benetton è praticamente salva e bastano 2 punti per essere appoggiati anche dalla matematica. Treviso Bologna era una di quelle sfide elettrizzanti che gasavano Enzo Lefebvre, che oggi non c'è più e che rimpiangiamo tanto. Uno che riusciva sempre, per ogni partita e ogni occasione, a organizzare convivi culinari cercando con la lente di ingrandimento i rifugi gourmet più tipici e straordinari. È ora dunque di addentrarci nella sfida a tavola, ragazzi. Non ci facciamo mancare un piatto di bigoli con il ragù, oppure con la salsa d'anatra. In Veneto non ci può esimere dal mangiare un risotto. Tra le mille varianti scegliamo quella con le quaglie. Non abbiamo esitazioni davanti a una bella porzione di baccalà, una cisola mi raccomando, magari fatto alla cappuzzina con uvetta e pinoli. Andiamo sul sicuro con la Juganega sulla graticola, una bella salsiccia aromatizzata con la dosa, e chiediamo il conto non prima di aver mangiato una rosada veneta, ovvero un buonissimo budino di latte. Ah, il bere, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Coldebella però ci ha confidato che qualcuno della Val d'Obbiadene nel consorzio ci sarà. È un prosecco obbligato e in questo caso utilissimo. Buona partita a tutti, trevisani e bolognesi. Il conto sarà salato, se mangi sì, sì, sì, sì, però le quaglie gliele lasciamo. Cosa le dici? Quaglie gliele lasciamo, okay. Risolto con le quaglie gliele lasciamo volentieri a Gianmaria. Come la vedi Treviso e il suo futuro? Ma finalmente bene, sperando che poi alla fine questi consorzi, purtroppo uno si tira con l'altro e quindi spesso, ed è importante quello che è successo a Treviso perché un grande imprenditore ha detto io ci sono per primo, quindi, sì, quindi fa da traino, perché sennò poi è difficile dalle lettere d'intenti arrivare alla solidità di una società vera con quello che comporta. Io penso molto bene, mi sembra che quello che stiano che ha fatto prima Enzo, Claudio, sia meraviglioso, perché la più grande tristezza era vedere la mancanza della pallacanestro a Treviso. Mi fa tristezza ancora pensare che non ci sia il signor Benetton, perché non per il passato ma per quello che è fatto quotidianamente, fa quotidianamente bene. L'unica cosa, la squadra chiaramente deve riuscire in questo momento in cui forse gli viene un po' da tirare il fiato di continuare a lottare fino alla fine, perché è importante per il consorzio oltre che per la classifica che la squadra dimostri di essere competitiva fino all'ultima partita, perché se sbraga adesso che è quasi salva si porta dietro qualcosa di non così bello. Sono d'accordo. Mentre la Virtus Bologna si è messa nelle condizioni di rischiare i playoff. Ma la Virtus io francamente faccio molto fatica a capirla, perché è una squadra che ogni tanto gioca una pallacanestro splendida, poi si incarta in cose. Chiaro, è una squadra giovane comunque, perché anche Sanichizza, che probabilmente è il giocatore più rappresentativo di questa squadra, è ancora un ragazzo, grandi potenzialità, chiaramente ha probabilmente il peggior straniero, il peggior extracomunitario e queste cose, non parlo di Douglas Roberts ovviamente, che anche lui un po' su e giù, ecco, diciamo che gli manca un po' la stabilità che gli dovrebbero dare quel paio di giocatori presi magari all'estero, fuori, proprio per dare stabilità a un gruppo di ottimo potenziale, Koponen, Sanichizze, Poeta, ma giovane, e anche con questo sicuramente le manca. Non è messa benissimo, no. Anche come calendario, anche come tutto, è in una situazione un po' particolare. Sarebbe francamente un delitto che arrivata al secondo posto a un certo punto della stagione, giocando benissimo, a questo punto perdesse il playoff. No, ma anche perché rischia di arrivarci quasi a motori spenti. 30 punti in classifica, Varese che è ottava ne ha 28, poi mi sembra che Avellino ormai... Purtroppo sia... non per demeriti dei giocatori e dell'allenatore, che hanno fatto una stagione meravigliosa, ma in quelle condizioni resistere francamente sì, impossibile. E c'è anche Roma che insomma la situazione non è come quella di Treviso, però anche Roma è in cerca di un futuro. Sì, non solo in questa stagione, 26 potrebbe ancora rientrare nel discorso playoff, ma non è questo il punto. Esatto, è una squadra potenzialmente che ci sta nei playoff, ma benissimo. Ovviamente partita tardi, ovviamente non fa bene, anche se forse lo fanno per attirare attenzione. Io sono sempre molto contrario alle società che per attirare l'attenzione su un problema, secondo me, lo ingigantiscono dicendo che non hanno compratori, non hanno futuro, non fanno niente, vero, che magari chiudono. Adesso, questo oltre a dovrebbe essere proibito per legge, perché dà della pallacanestro un'immagine peggiore di quella che è, secondo me non è neanche funzionale, perché poi la squadra si sente veramente alla fine di un, certo, di un ciclo. Palla spicchi. Per Roberto da Roma, che colpevolmente ha acceso tardi la radio, il nostro ospite è Luca Chiabotti, la Gazzetta dello Sport, ma adesso c'è anche Flavio Tranquillo al telefono. Ciao Flavio. Buondì. Grande partita abbiamo visto ieri sera, non so come tu l'abbia vista, con quali mezzi? Cioè, se dal vivo. Dal vivo eri là, streaming o a notte fonda? Bella partita, 35 minuti proprio secondo me belli, gli ultimi 10 un po' in riserva, tutte e due le squadre un po' giocate a ritmo lento con 8 guardie in campo e 2 ali, però i primi 35 minuti secondo me è una delle migliori partite viste quest'anno. Può cambiare qualcosa questa partita in prospettiva playoff, nella sfida tra le due? No, non credo che cambi tantissimo, aggiunge un pizzico di convinzione in più a Cantù, ma Cantù aveva già convinzione prima, però aiuta senz'altro a dimenticare di essere stati surclassati in Coppa Italia, ma indipendentemente dalla Coppa Italia credo che Cantù fosse convinta già prima di potersi giocare i playoff e sicuramente non aggiunge più di tanto dei dubbi a Siena. I dubbi ci sono, però assieme ai dubbi ci sono anche le certezze, perché ci sono stati almeno 2 o 3 momenti ieri in cui un'altra squadra probabilmente avrebbe abbandonato la partita, invece loro non l'hanno abbandonata. Pensa anche tu che non cambi niente, Luca, questa partita? Sul lungo periodo è difficile, probabilmente sì, nel senso che non è che abbia anche per il fatto che le due squadre non erano nella col line-up che troveremo nei playoff. Tecnicamente ha potuto dire delle cose relative, come diceva Flavio, hanno giocato molti minuti con Carretto 4, con Marco Svili sotto, cioè è stata una partita molto molto molto particolare, però sicuramente io credo che Cantù avesse bisogno di vincere, e il fatto di non aver perso, come era successo altre volte, qualcosa cambi in realtà, sì. Qualcosa cambi, e soprattutto le abbia dato anche la visione che anche lei, facendo un po' di cose strane, è riuscita comunque a competere, quindi avere magari qualche arma in più che altre volte ha scoperto, pensato di avere qualche arma in più, la scoperta che può giocare contro Siena anche se appunto con 4 guardie o sì, con questi. Flavio, era la settimana dei vecchioni, Del Piero e Basile, Kevin Garnett, guardando l'NBA. Decisamente Kevin Garnett, decisamente i Celtics hanno cambiato marcia quando l'ha cambiata Garnett, ma direi che più che Garnett quello che ha cambiato i Celtics è stato il fatto di aver messo Ray Allen nel secondo quintetto e la testimonianza che le squadre sane poi riescono a superare anche determinate situazioni. Ray Allen, di concerto con l'allenatore, ha detto: è inutile farmi giocare nel primo quintetto dove sostanzialmente sono la terza se non la quarta opzione, per come gioco io non posso essere la terza o la quarta opzione perché non sono utile e soprattutto rimango un pensiero nella testa delle altre opzioni, mettimi nel secondo quintetto, almeno so che lì sarò la prima opzione, è meglio per me, è meglio per la squadra ed è meglio per quelli del primo quintetto, e voilà, tipo bacchetta magica, funziona alla grande. Sì, mentre Luca il borsino in vista dei playoff NBA, dice Miami giù, perse le ultime due, stanotte sculacciata da una Chicago in cui Rose è rientrato ma non si è neanche visto, ma soprattutto 12-2 nel supplementare. Sì, non sta giocando, non gioca bene. No, e questo, tutti stiamo aspettando che questa squadra delle superstar giochi, in realtà non gioca bene. Poi ci sono squadre come, adesso occhio all'eresia, come Oklahoma City, che non giocano una grande pallacanestro sicuramente, ma hanno delle caratteristiche atletiche dai Bacca dietro alla Durant, e una classe così che riesce a farli giocare bene tra virgolette, e altre che evidentemente come Miami non ci stanno riuscendo. Il problema lì è Rose, però che cosa ne sarà di lui nei playoff? Forse Flavio lo sa, proviamo a chiederglielo. No, non ho la più pallida idea, però questa partita veniva troppo vicino alla partita di domenica, troppo vicino a 14 su 15 saltate, per cui direi che prima di poter fare delle ipotesi dobbiamo aspettare 10 giorni o comunque vedergli fare 3 o 4 partite di fila. Se per 3 o 4 partite di fila è questo, vuol dire che c'è qualcosa di serio da qualche parte, o nel fisico, ma presumo di no, essendo stato fermo 23 partite, oppure la desuetudine agonistica la paga troppo. Certo che meno 27 con lui e più 38 con CJ Watson tagliato a Reggio Emilia non è male. Tutti d'accordo però sul fatto che Miami bene non gioca? No, Miami ha completamente abbandonato il sistema con cui ha dominato la prima metà abbondante di stagione, completamente abbandonato. Il problema non è che fanno tra o quattro canestri in contropiedi in meno a partita, è che giocano a un ritmo, se prima il ritmo era a 100 km all'ora, adesso è a 50 km all'ora, quindi entrano nelle azioni di attacco da fermo, ci entrano con LeBron James che palleggia, lo rendono un bersaglio molto più facile, lo costringono a fare l'eroe prima, e se fai l'eroe prima poi non ha abbastanza forza, perché anche lui è umano, anche se per certi versi lo è meno degli altri, per esserlo nei finali. Quando non lo è nei finali, come sappiamo, la cosa si nota, se non spezzano questo cerchio tutt'altro che magico, visto che se ne parla in questi giorni, temo che siano destinati a fare un bis dell'anno scorso, però anche qui bisogna aspettare, perché se fanno il bis poi c'è l'autodistruzione lì. Vedo Luca che ride. L'autodistruzione. No, a me invece sono venute le lacrime agli occhi dalla commozione a leggere la sviolinata di Monty Williams a Belinelli. Marco è un mostro, lui è chi siamo e chi vogliamo essere. Non si lamenta mai, lavora duro ogni singolo giorno. Lui e Jason Smith sono stati la più grande sorpresa da quando sono qui, nonché due delle mie persone preferite da quando faccio e poi da quando faccio allenatore. Poi cosa manca? Che va a casa a cucinargli il risotto. Luca. Ma guarda, secondo me Marco si merita tutto questo proprio certamente, per quel tipo di atteggiamento che ha, nel senso che entra nel quintetto, esce dal quintetto, gioca tanto, gioca poco, tira bene, cioè lui è sempre lì e ha sempre dato un contributo veramente importante. Poi sai, gli allenatori hanno fatto 3 anni di militare a Cuneo tutti, quindi appena Gordon sta bene o con gli altri stanno bene, lui sta fuori dal quintetto e siccome non si lamenta quando gioca poco, chiaramente è perfetto. È il sogno di ogni allenatore. Speriamo che queste buone parole significhino per Marco, che se lo merita veramente, un bel contratto, non solo annuale, di un paio d'anni o tre ancora, visto che lo dovrà discutere durante l'estate, e che lo faccia prima possibile, così almeno poi viene in nazionale. Al di là dei violini zigani, caro Flavio, Gallo è rientrato invece a Denver subito piuttosto bene e stanotte, se non ricordo male, gioca a Los Angeles. È interessante vedere quello che farà Denver tra qui e la fine della stagione, quello che farà Danilo, posto che hanno avuto una stagione veramente troppo complicata per prendere un minimo di continuità. Già è semi impossibile prendere continuità in una stagione del genere con le 66 gare in 124 giorni. Se poi si fa male uno, rientra, si fa male l'altro, rientra, si fa male quello che sarà fatto prima, rientra, cedono Nenè dalla sera alla mattina, arrivano altri due, si rifà male quello che sarà fatto male prima, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, si ferma Fernandez, eccetera, eccetera. È una squadra che è cambiata troppe volte durante la stagione per avere continuità, e per giocare con la pallacanestro puoi solo contare sulla continuità. Però di buono c'è che adesso non hanno alcun tipo di pressione, se vanno ai playoff è veramente la classica squadra che non vorresti affrontare, e alla fine, se non succede incrociando le dita più niente tra qui e la fine, Danilo sarà più riposato di tanti altri che troverà ai playoff. Ah, sicuro. Grazie Flavio, ci sentiamo domenica sera. Sarà un piacere. Ciao Flavio, grazie. Ciao. In effetti Denver ha cambiato tutto, e poi ha un bel dire anche il coach, dopo Minnesota, è stata la peggior vittoria da quando sono qui. Meglio prendere e portare, esatto, a casa in questa stagione. Luca, grazie, ci vediamo quanto prima. Io grazie spero. A tutti. Grazie a Luca Chiabotti, Franco Piantanini in redazione. Noi con lo sport torniamo domani pomeriggio alle 5. Buona serata a tutti.